America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Beh, è il momento di bilancio. L'entusiasmo che ha segnato la chiusura del vertice europeo di venerdì scorso in borsa non ha trovato un replay nella giornata di ieri. New York preoccupata da un altro problema. Se l'Europa ha fatto un passetto in avanti, il problema più vasto che ormai sembra preoccupare il resto del mondo è il problema di un rallentamento, di una frenata globale. Da dove nasce questa conferma di questa preoccupazione del rallentamento? Beh, da una contrazione dell'indice ISM di ieri, l'indice manifatturiero americano, che in giugno è precipitato da quota 53,5 a quota 49,7, e gli economisti si attendevano una caduta a 52 punti, e dunque è stato un risultato molto peggio del previsto. Questo, direi, aggiunge un contorno drammatico a un quadro già preoccupante. La Federal Reserve aveva aggiustato le previsioni di crescita americana durante le ultime riunioni della settimana scorsa, dicendo che forse l'economia sarebbe cresciuta nel 2012, anche forse al di sotto del 2%. Beh, qualcuno torna a parlare di double dip, di rallentamento ancora più forte. Insomma, la preoccupazione avanza. E allora mi domando, chiodo schiaccia chiodo, se abbiamo così superato quello che sembrava un ostacolo insuperabile, l'accordo o comunque un accordo di massima con la Germania, e adesso possiamo superare questa preoccupazione recessiva? O come ai microfoni di America 24 per parlare di questa tematica del post vertice europeo, del post G20, Alberto Bisin, professore di economia a NYU. Buongiorno Alberto. Buongiorno, buongiorno Mario. Eccoci Alberto. Allora, qui fino alla settimana scorsa sembrava che, insomma, il problema dominante fosse l'Europa, Obama che chiamava 4 volte al giorno i leader europei, al G20 non si è parlato d'altro che d'Europa, eccetera eccetera. Poi ecco che oggi, dopo che venerdì più o meno il quadro europeo sembra che un piccolo passo in avanti è stato fatto, a questo punto si parla già d'altro. La preoccupazione sembra essere sul fronte della recessione, o comunque, diciamo, sul fronte del rallentamento dell'economia globale, soprattutto dopo il dato di ieri sul manifatturiero americano. Ecco, intanto condividi questa situazione, che se non è un problema è un altro, non ne usciamo? Qual è il tuo punto di vista? Condivido assolutamente. Il problema mi pare in parte che la politica sta cercando negli Stati Uniti e in Europa di trovare vie d'uscita poco dolorose, no? Per cui si tende ad assumere che uno dei fondamentali problemi sia il sentimento popolare, si cerca di dare ragioni in Europa con un nuovo meeting, con dei risultati, eccetera, si cerca di dare ragione alla gente di pensare che ok, finalmente ne stiamo uscendo, e poi in realtà i fondamentali restano abbastanza problematici sia in Europa che negli Stati Uniti, e quindi si fa molta fatica realmente a uscire. Ecco, come vedi da macroeconomista un percorso di uscita? Paul Krugman dice allarghiamo completamente i cordoni della borsa. Sei d'accordo con lui o ci sono altre soluzioni? Diciamo, la Fed certamente potrebbe agire forse un pochino di più, e certamente questo potrebbe avere un risultato, ma io ho l'impressione che questo sia un altro di questi elementi di breve durata. La Fed agisce, siamo tutti contenti, dura 3 giorni e poi è finita lì. Allargare i cordoni della borsa dipende dove e come. Non credo che neanche, diciamo, i supporti della domanda aggregata, cosa che peraltro in Europa non si è fatto, negli Stati Uniti però si è fatto con scarsi risultati. Naturalmente, come Krugman, puoi sempre argomentare se i risultati sono scarsi perché dovevi farlo 3 volte di più. Possibile, ma poco probabile secondo me, in realtà è perché non funziona. Torniamo all'Europa un momentino. Dicevamo che si è fatto un passo in avanti al vertice di venerdì scorso, i mercati hanno reagito molto bene, come ha titolato il Wall Street Journal, Germany blinked, cioè la Germania ha fatto capire che forse davanti all'assoluta rigidità sul tema di mollare o meno sulla questione degli aiuti bancari, eccetera, a quel punto ha fatto capire che forse qualcosa si poteva fare, quindi già si segnala un passaggio. Ma basta un semplice, diciamo, accenno di cambiamento di umore? E la domanda che ti faccio è: per un paese come il nostro, come l'Italia, nel momento in cui i differenziali, gli spread, dovessero restare attorno ai 400 punti, magari ritornare ai 500 punti, ecco, che implicazioni ci sono di spreco delle nostre energie, delle nostre risorse dopo i sacrifici che abbiamo fatto? Certamente certamente non basta che la Germania blinks, non basta assolutamente. L'Italia è, come insomma tu sai benissimo, è un'economia completamente irrigidita, un'economia che non funziona, dove è impossibile fare impresa, è molto difficile fare impresa, dove... Però Alberto, scusa, in effetti noi, questi erano problemi che l'Italia, diciamocelo, aveva da tempo, non è che sono improvvisi. Da sempre. Adesso forse certo. I nodi stanno venendo al pettine, o tu vedi che c'è veramente qualche cosa di più drammatico dal punto di vista strutturale che sta capitando e dunque occorre davvero... Non credo che sia capitato nulla di strutturale, credo che quello che sta succedendo è che in questo momento si stanno facendo i conti, perché fin tanto che l'Italia in questa situazione diventa meno grave, ma si stanno facendo i conti, si guarda che per una ragione o per l'altra l'intera Europa è in questa situazione e ci si preoccupa che l'Europa sia in grado di rientrare. Agire sugli elementi strutturali, l'unica altra riuscita ovviamente è quella di ridurre il debito attraverso progetti di austerità, un piano di austerità, ovviamente bisogna farlo, ma è estremamente costoso in termini anche economici e sociali per il paese e richiede lunghissimi periodi, quindi a questo punto l'unico modo, ne parlano in tanti, insomma l'unico modo di agire immediatamente è vendere attività. Però diminuiamo, dico, le stime più ottimistiche immaginano che si possa passare da un 120%, forse proprio se siamo fortunati, a un 100%, a un 105%, certo. Ma il problema è che poi il servizio sul debito resta e se ci sono gli spread elevatissimi noi restiamo con questo, fardello. Bisogna agire su tutti gli spazi, quindi bisogna agire su questo, bisogna agire comunque sul piano di rientro, di consolidamento fiscale che più o meno abbiamo in piedi, e bisogna agire attraverso la crescita. Ecco, pronuncio la parola che nessuno pronuncia, inflazione. Inflazioniamo, quindi automaticamente riduciamo il valore reale di questo debito. Una volta in un contesto di sistema paese nazionale si poteva fare, in un contesto europeo è più difficile, ma non è pur sempre possibile. È possibile certamente, però bisogna stare molto attenti. Innanzitutto, appunto, ritorno sulla tua parola, l'inflazione riduce il valore reale di questo debito. In realtà l'inflazione riduce il valore reale di qualunque debito. E questo un pochino, cioè, se vogliamo veramente ridurre il valore reale di questo debito, allora pronuncio anch'io una parola che non bisogna pronunciare, però allora ristrutturiamo il debito. Un haircut alla greca, in sostanza. Un haircut, certamente non così grande, però un haircut. Capisci? Perché tutto sommato c'è pieno di debiti in Italia che sono in realtà buoni debiti, e l'inflazione favorisce i debitori e sfavorisce i creditori su tutti i debiti e rende, insomma, genera inefficienza mostruosa. Meglio un haircut dell'inflazione. Ovviamente l'haircut è una cosa pericolosa di per conto suo, però secondo me sì. Secondo te l'euro resiste? Io sono pessimista su tutto, non vedo via d'uscita. Però faccio molta fatica a immaginare una rottura dell'euro, faccio fatica perché veramente io credo che anche la politica italiana, che è probabilmente la politica più, come dire, sconsiderata e irresponsabile fra quelle d'Europa, anche i politici italiani si rendono conto dell'enorme costo di una situazione del genere. Da questo punto di vista ho un minimo di ottimismo che in qualche modo alla fine si riesca a rimanere, l'euro riesca in qualche modo a rimanere in vita, insomma, non riesco, non vedo chiaramente come questo avvenga, ma in qualche modo ho la speranza che avvenga. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Un omaggio a Whitney Houston, un omaggio commovente. Una gran quantità di artisti si sono riuniti: Kanye West, Jay-Z, Nicki Minaj, Beyoncé. Insomma, il fior fiore dell'arte canora americano. La madre di Whitney Houston, Sissy, ha commosso il pubblico quando ha cantato Bridge Over Troubled Water, ponte sulle acque turbolente. Un titolo che può essere interpretato in mille modi, considerando quello che capita oggi. E dunque vi propongo l'originale di questa canzone, Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!